later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli imperversa la convinzione di trovarsi tutti in un reality show, Capa e Drago perdono il senso della reality, ops, rettifico, della realtà. Drago? Drago? Ehi, ma Capa, ma dove sei? Io sono nel sogno. Io invece sono sveglio. Ma no, ma come lo sai? Ma dai, ci risiamo con sta tiritera. Ma come lo sai che sei sveglio? Se tu fossi quello che io sto sognando e nulla più? Pazienza, pazienza. Ma come pazienza? Guarda come deve andare, io reagisco a quello che mi capita e poi vedremo. Vabbè. Allora, cosa vuoi da me? Se sei in sogno, lasciami in pace, no? È già un casino così la vita, ci manca ancora che tu mi parli da un sogno, da no. Parigi. Ma io ho il telefono con Skype. O con Skype, insomma. E quindi lo uso. Vabbè, ma scusa, dovrebbero dare un telefonino con Skype o con Skype anche ai morti nella bara. Ma cosa dici? Sì, parlare con l'aldilà a costo zero sarebbe una bella iniezione di concorrenza tra i cartelli del soprannaturale: cristianesimo, islam, ebraismo e Skype. Secondo me vince Skype. Beh, certo, non costa niente. Non devi nemmeno pregare, digiunare o startene in castità. Basta avere un nome e una password. Ma invece noi due, cioè, mi spieghi che cosa sogni a fare se poi i sogni che fai sono uguali a quando non sogni? Voglio dire, tu nel sogno dove sei? Ma cosa sei, Marzullo? Sono a Parigi. Sempre a Parigi? Sì. E invece di essere al Centre Pompidou a vedere qualche mostra, dove sei? Sono in una stanzetta che puzza di morto. Ecco, si sente che sei in una stanzetta, Vicino al cimitero di Montmartre. Ah, ma è pulita, eh? È una pulita. Un po' di morto, però è pulita. Sì, ho capito, perché stai in una stanzetta a parlare con me? Perché ho il telefono Skype, però non ho quello cordless. Come no? No, al cavo. Allora, per parlarti devo stare in casa, nella mia stanzetta del sogno. Vuoi che te la descriva? Ma cosa, la stanzetta? No, davvero, grazie. Sì, Drago, il bagno non è male, per esempio. Mi ricorda un po' la fabbrica, c'è una puzza come di morto. Ma stai sognando, non puoi sognare qualcosa di diverso dalla fabbrica? Sì, forse. È meglio, sogno, non pensare alla fabbrica, pensa a Parigi, no? Parigi, sì. Aprile a Parigi, cosa vuoi di più? April in Paris, vai, vai, va, vulva. La fabbrica di polli. Ma quando è che ci chiamano al confessionale per il nomination, Amici! No, perché qui si aspettano ancora un po', la tensione scende, Devono battere il ferro finché è caldo. Andiamo nella Cappella di San Gallo, dai. Amici! Buonasera. Fedele, hai appena inserito un gettone sagomato di difficile reperibilità nella mia fessura sagomata di altrettanto difficile reperibilità. Sfirla. Elettrico? Sì. Si possono già fare il nomination? Non ancora, fedele. Ma allora quando? Deve arrivare l'ok. L'ok? Sì, ok. Ok. Ok. Grazie. Sfirla. Ho detto grazie. Sfirla, prego, sfirla. Capo, eccoti qua, allora non stai più sognando. Ma cosa dici? Sognando chi? Niente. Buono sbattimento. E pollastri. Il nomination quando si potranno fare? Non lo so, devono aspettare l'ok. L'ok? Che? Dicono così, che devono aspettare l'ok. Ma quando si aspetta l'ok non c'è altro da fare che aspettare l'ok. Ok? Aspettare l'ok fa perdere 7.750.000 euro all'anno alle aziende italiane. Aspettando l'ok. Deve arrivare l'ok. Aspettiamo che arrivi l'ok. Prima bisogna aspettare l'ok. Io senza ok non faccio niente. Ok. A Anche tu sei chiamato a dare il tuo contributo affinché il tempo d'attesa dell'ok si riduca drasticamente. Decidi sempre precipitosamente e salva l'economia nazionale. Ok. Con il tuo ok farai ripartire il motore del tuo paese. Smettila di tentennare e decidi subito alla cazzo di cane. Ok. Io lavoro di notte per stare da solo in silenzio. Lavoro la notte e mentre lavoro io penso che meno gente vedo e meglio sto. Sarò misantropo, lo so, ma al pop del giorno preferisco il sol, perché in a moonlight I trust, in a moonlight I say, please go, go, don't stay. La fabbrica di polli. Drago. Drago! Oh! Mi senti? Ma sì! Mi vedi? No, non ti vedo. Ok. Adesso stai di nuovo sognando? Veramente sto sempre sognando. Ti ho visto un attimo fa ed eri sveglio. No, stavi sognando. No, sei tu stai perdendo il conto. Io ero sveglio prima e sono sveglio adesso. E come ne sei così sicuro? La realtà è la realtà, K. Il sogno è il sogno. Allora ti giro la domanda. Come fai a dirmi con certezza che adesso tu stai sognando? Perché sono a Parigi e so di non essere a Parigi nella realtà. E come lo sai? Lo so. Io sono nella fabbrica con te, il pollo sbattuto. Tarek, Joao. Qui invece sono con Michela, Charlotte, sì? E Denisa. Senti qua. Se questo non è un sogno, Drago, on est ici avec les trois jeunes filles. On mange la tartare. Sì, capo, va bene. Ho tanta tartare. Tartare, è qualcosa di meglio. Ma come sono le francesi? Ma très bonne. Ma è vero che puzzano tutti un po' d'aglio? Hai lì? Sì, hai lì. Pas vrai? Tu ti immagini Michele che puzza d'aglio? E Charlotte? E Denisa? Drago, queste francesi raffinate non puzzano d'aglio, puzzano di Chanel. Tutto è più un po' barricato qua e là. Ma come barricato? Si manca abiti in Francia. Cosa c'entra barricato? Vabbè, cappa. E come devo fare per raggiungerti lì a Parigi con Michelle, Charlotte e Denisa? Devo sognare che vieni qui a Parigi. E allora prova, no? Attends. La bon, si parla, eh? Ah, io non sogno mica col mondo, eh? Bon, les italiana, charlatana. No, vabbè, prova. Stai già sognando. Prova tu a mangiare la tartare. No, tutti i giorni tartare. Lo so. E poi dopo ti viene. No, cosa ti viene? No, per piacere. Ti viene il carattere come moi, eh? Ah, ecco. Bon, tu parli. Ne t'inquiète pas, eh, toi. Ah bon? Toujours à manger la tartare. On devient français, hein? On devient des lions, hein? On fait la révolution, hein? Che cosa succederà adesso? Drago raggiungerà K nella Parigi dei sogni? E se sì, Parigi diventerà un'immensa fabbrica di polli? Per saperlo, sintonizzatevi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo napoleonico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. La radio televisione italiana presenta. Prima bisogna aspettare l'ok. Ma no. Ok. Ma no. Ok. Ma no. Ok. Ma no. Ok. Ma no. Clausura. Oh mio Dio! Ma no, ma no, ma no! Ok.